Capitolo 43. Venezia, 5 novembre 1551. Due giorni di veglia. Alleviati da 8 ore di sonno, bastano a impedire che un cinquantenne indolenzito allacci decentemente la sua giubba. Al terzo tentativo soltanto riprendo finalmente confidenza con i movimenti di ogni giorno. Lascio salire dallo stomaco l'agitazione necessaria a scacciare la stanchezza. Grasbeck è già nell'atrio, avvolto nel mantello, schiena appoggiata alla cassettiera e testa abbandonata all'indietro, quasi a cercare concentrazione con l'aiuto di lunghi respiri. Non avrà con sé armi da fuoco, solo una lama corta, il minimo. È vecchio quanto me, più stanco. Posso fidarmi. Fitta al polso, sempre fasciato, stretto da un leggero tessuto d'oriente, variopinto, ripiegato più volte su se stesso per la lunghezza di 5 dita, a coprire poco meno di metà avambraccio. Entrerà nell'agenzia senza destare sospetti, a carta bianca. I Fugger sanno conquistare. Stretti guanti di pelle scura, lucida, sottile, dei conciatori spagnoli, regalatimi dal giovane Bernardo Miquez. Strano destino. La resa dei conti non è come te l'aspetti. Rimbalza l'immagine riflessa dal sontuoso specchio, alto come me, largo 2, della residenza Miquez alla punta estrema della Giudecca. Non è come te l'aspetti. Rada barba grigia incornicia il volto. Dovrà trattenersi il tempo necessario a ritirare l'incartamento. Niente convenevoli. La vecchia gobba sul naso schiaccia leggermente la punta verso sinistra. I capelli legati dietro la nuca e lisciati con l'olio dono di Beatrice. Le pistole incrociate in cintura. Sfioro il manico del coltello, assicurato dietro la schiena. Mi verrà incontro, passandomi la piccola borsa di tela con dentro il documento. Copro le armi, tirandomi sulla spalla il lembo del mantello. Un'occhiata a Heinrich, riflesso nello specchio, nella medesima posizione. Sebastiano ci attende all'imbarcazione. Dopo lo scambio, usciremo sul lato opposto del fondaco, direttamente sul Canal Grande, da lì al Caratello, poi verso la terraferma. Joao compare all'improvviso. È tutto a posto. Un cenno a Grasbeck. Andiamo. Imbocchiamo Rio del Vin, tra le cupole di San Marco e il campanile di San Zaccaria. Sebastiano sospinge la barca, io e Grasbeck siamo seduti uno di fronte all'altro. Allenta la tensione dei muscoli sul collo, massaggiandolo a lungo. Nessuno sente il bisogno di parlare. Dopo un'ampia curva prendiamo il Rio di San Severo, un percorso largo e tortuoso. Passiamo sotto un paio di ponti, fino al Rio di San Giovanni, poi a sinistra. Il canale si apre, sempre dritto. Dalla terraferma, rotta di collo verso Trento, risalendo la valle del Brenta. 2 giorni a cavalli lanciati, sostando solo per i cambi, scortati dai 6 migliori uomini dei Miquez. Raggiungere Paul a ogni costo. All'incrocio con Rio dei Miracoli prendiamo a sinistra, fino al Rio del Fondaco. Sbarchiamo. Consegnare nelle mani del cardinale inglese la confessione di Manelfi. Solo Heinrich può farlo. 50 passi e siamo dentro. Intorno all'ingresso trambusto di campanelli. Incrocio lo sguardo di Duarte. Solo un cenno della testa. Grasbeck è al mio fianco. Entriamo nel quadrilatero del fondaco dei tedeschi. Al centro del cortile campeggia il pozzo, rialzato da 2 gradini di pietra. Il mio posto. Andirivieni di uomini d'affari. Immancabile mescita di birra. Grasbeck gira sotto il portico, a sinistra. Punta dritto verso l'agenzia dei Fugger. All'altezza della terza arcata, entra. Tocco le impugnature sotto il mantello. 3 ordini di portici si innalzano sui 4 lati del cortile. 5 arcate a terra, 10 su ciascuno degli ordini superiori, sempre più basse man mano che si sale. Sulla destra 4 persone discutono fitto, contando sulla punta delle dita. Un uomo appoggiato a una colonna, all'uscita che dà sul canale. Sull'angolo, in fondo, alle mie spalle, un gruppo di tedeschi si passa delle carte. Lo sguardo prosegue il suo giro. Altri uomini indaffarati entrano ed escono in continuazione, percorrono il porticato. Dal primo piano, il rumore degli avventori della birreria, affacciati sul cortile, persi nelle chiacchiere. All'ingresso principale, oltre il viavai, 2 uomini in nero tengono i lati. Rigonfiamenti sotto le cappe. Fissano la porta della banca. Merda. Grasbeck è ancora dentro. A destra i 4 non hanno smesso di contare. Quello più discosto fa un gesto a indicare l'agenzia. Attendere. Guarda verso le arcate superiori. alle mie spalle. Mi volto. Dalla birreria un altro sgherro tiene d'occhio la banca. Quello appoggiato alla colonna è ancora lì, occhi nella stessa direzione. È una trappola, ci fottono. Di nuovo sull'ingresso principale, i due corvi sono innervositi dal trambusto che viene da fuori. Duarte entra nel fondaco alla testa dei mercanti di Rialto. Il rumore aumenta. L'agenzia. Gresbeck mi viene incontro. Solleva il braccio puntando la pistola. Mi hai fottuto di nuovo. Fa fuoco. Alle mie spalle un uomo si accascia e grida. Riversano il pozzo. Rumore di ferraglia per terra. I mercanti invadono il cortile. Gresbeck mi allunga la borsa. Muoviti, cazzo! Clamore indistinto. Vengo risucchiato dalla ressa. Risalgo la corrente che mi fa scudo. Spintoni e urla in tutte le lingue. Pietro Perna mi arriva sotto. Mi strappa la borsa di mano scambiandola con una uguale. Strizza l'occhio. Habemus papam! Sguscia fuori dalla calca, verso l'ingresso principale. La confessione di Manelfi è al sicuro. Mi abbandono alla marea dei mercanti di Rialto che sciamano in senso opposto, verso l'uscita sul canale. Non vedo Gresbeck. Raggiungo il portale sospinto di peso da un nugolo di uomini vocianti che sembrano impazziti. Colpi, grida. Lo sgherro alla porta viene travolto rapidamente. Gresbeck riappare al mio fianco, si apre un varco e veniamo scaraventati sulla barca. Via, via, al caratello! Passiamo sotto Rialto. Sebastiano spinge la barca con tutta la forza. Infiliamo Rio San Salvador. Le mani mi tremano dall'agitazione, vampate di calore dalla testa ai piedi. Non sono sicuro di cosa sia accaduto. Di fronte a me, il volto di Gresbeck pare calmo, sorprendentemente impassibile. Mentre prendiamo a destra, per il Rio degli Scuocamini, si fa passare della polvere da sparo e ricarica la pistola. Si volta indietro, accenna un'espressione rassicurante. Non ci stanno seguendo. Riordino le idee. Passo le mani sul volto. Dove l'hai presa? Gert, dai Fugger si può depositare ogni cosa. So cosa hai pensato, ma come vedi, non hai riposto male la tua fiducia. Nemmeno Münster hai sbagliato a farlo. Heinrich Gresbeck è stato un buon luogotenente. Ho creduto che quel colpo fosse per me. Quelli erano i sicari di Carafa. La preda ero io. Mi chiedo come potessero essere già lì ad aspettarmi. Rio dei Fuseri. Lo risaliamo fino a Rio di San Luca per sbucare di nuovo sul Canal Grande. Puntiamo dritto su Rio dei Meloni. I Fugger sanno conquistare Heinrich. La loro proverbiale riservatezza scompare di fronte a chi garantisce che Dio è dalla loro parte. Sono stati loro ad avvertire Carafa. Si intravede l'imbocco di Rio Sant'Apollinare. Svoltiamo. Ci siamo quasi. Gresbeck scuote la testa. La caccia è appena cominciata. Come raggiungeremo Trento? Anche se dovessimo riuscirci, Carafa ci starà aspettando a braccia aperte. La barca accosta. Una smorfia che vorrebbe somigliare a un sorriso. Siamo vecchi, Heinrich. Tenteremo. Estrae un piccolo taccuino dalla tasca. Fogli gialli, avvolti dentro una striscia di cuoio chiusa da un laccio. Nella cassaforte dei Fugger c'era anche questo. È l'unica traccia del mio passaggio. Tienilo, capitano. È tuo. Lo infilo nella manica. Saltiamo giù. Percorriamo lo strettissimo vicolo uno dietro l'altro fino all'ingresso sul retro del caratello. La resa dei conti non è come te l'aspetti.